Mi sembra che la parola di Dio stia camminando nel mondo, stia penetrando nelle anime, nelle coscienze dei cristiani, tant'è vero che più volte ormai, a commento anche dei miei pensieri spirituali che condivido, mi ritornano indietro magari messaggi in cui qualcuno mi dice: ha visto com'è bella la tal lettura, il Vangelo? Oppure proprio stamattina una persona mi diceva: mi sono alzata un po' triste, un po' grigia, ma il Salmo responsoriale di oggi mi ha dato una sferzata, mi ha fatto rialzare. Ed era esattamente il Salmo che io stesso avevo meditato e che vi condivido augurandovi che non solo sappiate apprezzare quando il sacerdote vi spiega la parola di Dio, ma che voi stessi impariate a farlo da soli. È il Salmo 31-32, è di uno che si sente in colpa. Tacevo, si logoravano le mie ossa mentre ruggivo tutto il giorno. Come esprime bene questo salmo la fatica di certe giornate, la fatica di alcuni momenti della nostra vita in cui sentiamo quasi che le nostre ossa si spezzano, sentiamo quasi che dentro di noi c'è dentro un ruggito di una persona scontenta, perché giorno e notte pesava su di me la tua mano e il mio vigore si inaridiva come nel caldo dell'estate. E quando ci capitano momenti così, ci capitano. Allora cosa fa il salmista? Allora il salmista si prostra davanti a Dio: ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità. Si tratta di mettersi davanti a Dio e dire: Signore, io sono una frana, Signore, io non valgo niente, Signore, alcune volte io sono pieno della mia boria, ma se guardo dentro bene mi sento un fallito. Allora ti riconosco davanti a te la mia incapacità e tu, continua il Salmo, hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Amici, solo quando riconosciamo davanti a Dio la nostra incapacità, la nostra piccolezza, allora Dio può trionfare in noi. Per questo ti prega, continua il Salmo, ogni fedele nel tempo dell'angoscia. E dice: tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Amici, solo se ci sappiamo mettere in ginocchio davanti a Dio e riconoscere la nostra nullità, il Signore può lavorare in noi. Tutte le volte che noi non siamo contenti di noi stessi, tutte le volte che noi siamo preda dell'ansia, quante volte l'ansia ci schiaccia, tutte le volte che noi non piacciamo a noi stessi, buttiamoci nelle braccia di Dio. Non è forse Egli un padre?